Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, mentre in Italia ascoltiamo in diretta questo interessante, si può senz'altro dire, sorta di incontro Renzi-Grillo, che naturalmente tra poco potete riavere anche sul nostro web in Ucraina, e da qui apriamo la nostra pagina europea, siamo davvero di fronte a qualcosa molto prossimo a una guerra civile, tanto più che negli ultimi minuti arrivano comunicazioni dalla città di Lvov, Leopoli, dunque stiamo parlando dell'Ucraina occidentale, la parte che peraltro prima della seconda guerra mondiale era un paese che sembra lacerarsi letteralmente negli scontri, nelle vittime e nelle battaglie urbane. In tutto questo cominciamo a farvi sentire un'intervista che Anna Marino ha realizzato a Kiev con uno dei manifestanti, che è stato appunto raggiunto dalla collega nella storica piazza Magadan al centro della capitale ucraina. Sentiamolo. La ragione del conflitto è una. Yanukovych occupa tutto il potere in Ucraina a tutti i livelli e in tutti i settori. Tutto questo è stato raggiunto in modo illegale. Non è tutto dovuto alla mancata firma per l'adesione all'Unione Europea, ma è tutto dovuto agli atti criminali che Yanukovych commette tutti i giorni. Il presidente non vuole ascoltare le ragioni, anche europeiste, dei manifestanti ucraini. Vi sentite aiutati dall'Unione Europea? Per la verità il popolo ucraino non sente un forte aiuto dall'Unione Europea. Noi ascoltiamo solo parole ogni giorno di sostegno e non vediamo nessun fatto, nessuna azione. Avete paura? Vi sentite in pericolo? La giusta risposta è naturale, è ovvio che abbiamo paura, ma noi siamo qui in questa piazza, in questo presidio di protesta, e siamo pronti a stare qui tutto il tempo che sarà necessario. Questa è dunque l'attualità, l'avete sentito anche nel corso dei giornali radio. Domani l'incontro ai massimi livelli, l'Unione Europea cerca una soluzione, si tratta anche con Mosca, l'altro grande interlocutore di questa crisi, così drammatica. Intanto noi continuiamo il nostro viaggio contro gli sprechi alimentari, il viaggio europeo che la nostra Laura Bettini sta compiendo questa settimana per ridurli. La Commissione ha riunito gli attori della filiera alimentare per studiare quali potrebbero essere gli interventi. Paola Testori Coggi, direttore generale salute e consumatore della Commissione, al microfono appunto di Laura Bettini. Per quel che riguarda la produzione, vedo che lavorate sia, state pensando insomma interventi a livello di packaging, e anche si ritorna sulla annosa questione della consumare preferibilmente entro, cioè, o consumarsi entro. Ma la data di scadenza non è sempre una data di scadenza, c'è una data di scadenza su alcuni prodotti che sono quelli che non resistono, come per esempio i latticini, ma invece ci sono altri prodotti, come prendiamo una scatola di biscotti dove c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, ma al di là di questa data il prodotto è sanissimo, soltanto che magari non sarà croccante. Ma e nel caso appunto uno volesse così richiamare l'attenzione su questo, cosa si fa? Si mette sulla scatola una doppia scadenza? Questo è un discorso che si potrebbe forse regolamentare per legge, perché questa è la legge europea che definisce questi due tipi di date, e noi stiamo lavorando con l'autorità per identificare meglio quali sono veramente i prodotti che hanno bisogno di una data di scadenza e quindi focalizzarsi su quelli e invece eliminare molti dei prodotti dove invece non è necessaria la data di scadenza. Quindi stiamo lavorando per modificare, diciamo, i regolamenti di applicazione di questa cosa della data. E con questo è tutto, Europa 24 torna domani, un saluto a tutti. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.